Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, il viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. E me lo aspetto, è comprensibile, grande stupore vi coglierà sentendo parlare di seppie cotte in lavapiatti, però è così, oggi inizia così Möbius. Sentiamo i titoli e poi partiamo. Seppioline in lavapiatti. Tutti i segreti della cottura sottovuoto per cucinare molluschi, pesce e verdure dentro la lavastoviglie. La vita riproduttiva degli uccelli è più intensa in città. La colpa è della luce artificiale. Cosa fanno i gabbiani di notte sui tetti di Roma? Möbius questa settimana soddisfa la curiosità di Giorgio di avere maggiori informazioni sull'isola deserta di Clipperton. Procrastinare, ovvero la tendenza a rimandare tutto. Un ricercatore italiano ne parla su Nature. Chiara Albicocco, la nostra esperta di cucina scientifica. Sì, è già qui, eccomi qua, lo sai, uno dei miei argomenti preferiti. Esatto, forse questa volta siamo andati oltre misura. Il professor Cassi anche... Ma vedrai anche... che non è così, vedrai. Va bene, il professor Cassi è già qui con noi. Buonasera Cassi. Buonasera. Allora, la coppia è formata... Il nostro fisico buongustaio, vogliamo dirlo certo. per chi ci segue per la prima volta, il nostro fisico buongustaio, fisico della materia presso l'Università di Parma. Insomma, poi va bene. Gli ascoltatori... Va bene, più ne metta, ecco, però qui adesso io vi ascolto. Per questo menù cucinato con la lavapiatti. Allora, adesso lascio il microfono al professore per spiegare, diciamo così, la parte introduttiva. Poi dopo gli puoi fare tutte le domande che vuoi. Bene. Prego, professore, a lei il microfono. Allora, prima di tutto vi voglio tranquillizzare. Si tratta di uno strumento poco convenzionale per un tipo di cottura che invece si utilizza da oltre 30 anni. Si tratta delle famose cotture a bassa temperatura o cotture sottovuoto. Qual è l'idea? Che normalmente noi cuociamo in acqua bollente a 100 gradi semplicemente perché è molto difficile mantenere l'acqua a temperature più basse. Quando noi scaldiamo una pentola d'acqua, la temperatura sale, arriva a 100 gradi e comincia a bollire, e a tale temperatura si mantiene finché non è evaporata tutta quanta. Quindi è una temperatura molto stabile da mantenere in cucina, ma purtroppo molto spesso distruttiva per tanti alimenti. Per esempio il pesce si rovina cotto a 100 gradi, quindi ci vengono in aiuto delle tecniche più moderne che consentono di mantenere l'acqua a temperature più basse, tipicamente tra i 60 e i 65 gradi. E quali sono queste tecnologie? Eccoci qua. Ecco, queste apparecchiature che si chiamano bagni termostatati un tempo venivano utilizzati solo in laboratorio. Sono, per intenderci, delle apparecchiature di bagno Maria particolarmente sofisticate, che sono in grado di mantenere la temperatura dell'acqua con la precisione di più o meno un grado. Solo che queste apparecchiature sono tremendamente costose. La prima, che è uscita in commercio qualche anno fa, costa ancora oggi oltre 1600 euro. Successivamente è stato messo in commercio una sorta di forno ad acqua a un prezzo leggermente più accessibile, siamo sui 600 euro, ma ci siamo anche accorti che in casa disponiamo già di un forno ad acqua, addirittura infatti... di un forno ad acqua a convezione. Forno a convezione, per intenderci, sono quelli con una ventola che spara l'aria calda contro l'alimento, velocizzando i tempi di cottura. La lavastoviglie è un fantastico forno ad acqua a convezione, perché spara getti d'acqua calda ma non caldissima, siamo appunto intorno ai 60, 65, 70 gradi, sull'alimento, cuocendolo alla temperatura giusta che serve per mantenerlo buono. Ecco, la temperatura giusta è, come ci diceva lei, sui 65 gradi, quindi chi volesse utilizzare questo tipo di tecnica per la cottura deve impostare il programma della lavastoviglie con questo tipo di... Ma questo è molto semplice, si può vedere in ogni libretto di istruzioni. Lei così ci dice, in effetti, guardando la macchina e interessandosi un po' del suo funzionamento, le cose tornano, che la lavatrice non è un oggetto nel quale ci sono dei getti violentissimi. Ci posso mettere anche del cibo, però confezionato in qualche modo, immagino. Ecco, questo è il punto. Esatto, qua manca un dettaglio, che è che i cibi che vengono cotti a bassa temperatura in questi bagni termostatati, quindi anche in lavastoviglie, non sono cibi nudi, nel senso che vengono rivestiti, o meglio, vengono inseriti in un involucro a tenuta stagna, e tipicamente è un sacchetto di plastica in cui viene fatto il vuoto. Adesso sono diffusissimi questi sacchetti, le macchine sottovuoto sono presenti in quasi tutte le case degli appassionati di cucina. Poi un consiglio, una precauzione: verificate prima di cuocere che i sacchetti che avete a disposizione non vengano danneggiati da queste temperature, che non sono altissime, ma per alcuni tipi di plastica possono essere già dannose. Ci sono plastiche che a temperature già moderate tendono a sciogliersi o comunque a perdere struttura e soprattutto a contaminare l'alimento. Eventualmente si potrebbero usare anche dei vasi di vetro a chiusura ermetica? Barato. I vasi di vetro vanno benissimo. Allora, qual è il vantaggio dell'utilizzo di una plastica malleabile, flessibile rispetto al vetro? Il vantaggio sta nel fatto che possiamo togliere l'aria, se non del tutto, almeno un po', diminuendo quindi la distanza fra la superficie del sacchetto e l'alimento, quindi favorendo la diffusione del calore. Se i vasi di vetro sono poco pieni, allora l'aria che sta all'interno del vaso funge da isolante, rallenta la cottura. Quindi se i vasi di vetro sono ben riempiti vanno benissimo. Se devono essere lasciati semivuoti, allora preferite il sacchetto. C'è un aspetto interessante che ho trovato anche su alcuni blog ecologisti, cioè alcuni raccomandano di utilizzare questo tipo di tecnica di cottura durante il lavaggio tradizionale dei piatti. Però qui dobbiamo avere delle precauzioni, cioè insomma, professore, lei lo raccomanda o potrebbe essere in qualche modo il detergente della lavastoviglie corrosivo o pericoloso? Allora, io non lo faccio mai per tanti motivi, principalmente di carattere gastronomico, perché io voglio una cottura perfetta, quindi nella mia lavastoviglie metto esclusivamente gli alimenti da cuocere, non metto il detersivo. La lavastoviglie riempita con i piatti chiaramente ostacola la diffusione dell'acqua. Voi sapete che quando è troppo piena i piatti non vengono lavati benissimo. Certo, vero. Quindi questi potrebbero anche ostacolare la cottura. Un altro motivo che mi induce a sconsigliare questo tipo di procedura è che conosco molto bene questi sacchetti per le cotture sottovuoto perché li sperimento da anni. E non sono proprio esattamente stagni, qualcosina lasciano passare, diciamo così. È chiaro che se si tratta di acqua non mi interessa, ma se questo qualcosina è un detersivo particolarmente aggressivo, io preferisco fare la mia cottura in lavastoviglie ignorando la sua funzione di lavastoviglie. Abbiamo pochissimi secondi, ma se lei è d'accordo, professore, darei una ricetta velocissima. Ad esempio, proviamo a preparare le seppioline come suggerivamo nei titoli. Guarda, le seppioline sono fantastiche, prendete delle seppioline, se le trovate fresche tanto meglio, se le trovate surgelate fatele prima scongelare, le inserite in un sacchetto dopo averle cosparse con un po' di sale, un poco di prezzemolo e di aglio, diciamo. Le chiudete in questo sacchetto, fate un ciclo di lavaggio a queste temperature intorno ai 65 gradi, le estraete e le ricoprite con un filo d'olio. Allora vi accorgerete che il colore è bellissimo, la consistenza è fantastica perché è molto morbida, i profumi sono molto buoni perché non hanno quel caratteristico odore di pesce troppo cotto, che è la puzza di pesce per intenderci. Ma provate e vi assicuro che tornerete a rifarlo più di una volta. Va bene, mi avete convinto. Ti abbiamo convinto. E per convincere anche gli ascoltatori invitiamo sul nostro blog, blog.moebiusonline.eu, per vedere le foto, perché l'abbiamo provato, e per avere qualche spiegazione in più. Grazie professore. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Che cosa sono le cince? Sono degli uccellini. E i gabbiani invece sappiamo tutti chi sono. Va bene, cosa accade loro con l'illuminazione dei nostri territori? E ve lo racconta Barbara Galavotti. Si calcola che fino a un terzo della luce che dovrebbe illuminare le nostre strade di notte finisca invece proiettata in cielo. È l'inquinamento luminoso. Rappresenta uno spreco enorme, ci impedisce di goderci il cielo stellato, soprattutto in estate, e disturba gli uccelli migratori. Più in generale, le nostre luci artificiali scombussolano il modo di vivere, i bioritmi degli uccelli, che in genere approfittano di queste ore in più per vivere in maniera frenetica. Ne parliamo con Alessandro Montemaggiori, l'ornitologo che qui a Moebius è stato già ospite molte volte. Buonasera, Alessandro Montemaggiori. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Partirei da uno studio che è stato reso noto alcuni mesi fa dal Max Planck Institute. Gli ornitologi di questo istituto tedesco hanno studiato il comportamento di diverse specie di uccelli e hanno messo a confronto il modo di vivere degli uccelli che abitano nelle zone più illuminate, quindi in città, con gli uccelli di campagna dove è più oscuro. Ed è risultato, ad esempio, che le cince delle zone illuminate sono più propense ad avere rapporti extraconiugali. Poi che gli uccelli canori delle zone più illuminate tendono a cantare prima, nelle ore più precoci del mattino, rispetto a quelli che abitano in aree oscure, e così via. È qualcosa che ci stupisce o in qualche modo conferma quello che già sapevamo? In realtà non ci stupisce, perché tra le conseguenze della cosiddetta urbanizzazione di molte specie selvatiche, le alterazioni di carattere comportamentale sono molte. Solo per fare un esempio, gli uccelli canori che nidificano in città hanno sviluppato un canto più acuto e più forte in termini di volume per contrastare il forte rumore del fondo del traffico cittadino, al quale noi siamo oramai del tutto assuefatti. Nel caso specifico, i ricercatori tedeschi hanno messo in evidenza che le cinciarelle che vivono in aree fortemente illuminate artificialmente depongono in media un giorno e mezzo prima le loro uova. I maschi, come tu dicevi, cominciano a cantare con molto anticipo, ben prima dell'alba, e hanno rapporti appunto cosiddetti extraconiugali, cioè si accoppiano con più femmine contemporaneamente. Questo in realtà perché le femmine che usano il canto come un metro di paragone per scegliere i maschi migliori sono indotte all'accoppiamento con chi canta di più. Quindi tutto si accelera in qualche modo, vivono in maniera più intensa, un po' come noi umani. Sì, sicuramente è così. Infatti altri studi hanno provato che uccelli, per esempio, che nidificano nelle città, nelle grandi città come Roma e Berlino, si nutrono anche di notte, soprattutto intorno ai lampioni accesi. Questo ovviamente porta a un ritmo più frenetico e anche alla deposizione, in alcuni casi, di più covate nel corso della stessa stagione riproduttiva. Ma ovviamente c'è una contropartita che è il maggior grado di stress e di fatica fisiologica, il che probabilmente porta a un'aspettativa di vita più breve questi animali. Comunque, quelli a cui va peggio sono in qualche modo gli uccelli migratori, a quanto pare. Questo è assolutamente vero. L'inquinamento luminoso è una vera e propria minaccia per i migratori, soprattutto quando di notte le luci artificiali oscurano, tra virgolette, il cielo stellato, che è uno dei sistemi più importanti e uno dei meccanismi genetici più importanti di orientamento che un uccello possa avere per spostarsi da un continente all'altro. Questo a che cosa porta? Sostanzialmente alla deviazione dei flussi migratori, alla collisione per esempio con le luci artificiali. Ogni anno muoiono milioni di uccelli che sbattono contro i fari che scambiano per la luce della luna, e può portare anche a sostare in aree che non sono adatte, per esempio intorno all'aeroporto di Malpensa, che è un'area fortemente illuminata artificialmente, sono stati osservati e catturati migratori che lì non avrebbero dovuto fermarsi, viste le condizioni fisiologiche, ma soltanto passare in volo. È un po' paradossale, perché in fondo i migratori, quando muovono d'estate verso le zone più nord, quello che cercano è più luce, proprio per poter deporre più uova e più accoppiarsi in maniera più efficace, a seconda di quello che lei mi diceva prima della trasmissione. Allora il dubbio viene: ma questi migratori finiranno per smettere di andare al nord a cercare luce, visto che lo possono trovare in una qualsiasi città nelle nostre latitudini? Il comportamento migratorio di fatto è estremamente plastico negli uccelli ed estremamente fluido. Contrariamente per esempio a quello che si pensa, un'intera popolazione di migratori parziali può trasformarsi in una popolazione assolutamente sedentaria nel giro di appena 2 anni, tanto per dire. Questo ovviamente non può avvenire per tutti, ci sono specie che sono obbligate di fatto a spostarsi, proprio quelle che nidificano per esempio nella tundra artica, dove l'inverno fa meno 60 gradi e il sole scompare per mesi, per cui è un obbligo quello di spostarsi in territori più, diciamo, favorevoli. Ma potrebbero poi decidere di passare l'esistenza nei territori favorevoli, visto che nei territori più temperati, visto che possono trovare la luce notturna ovunque. Sì, in alcune specie questo già sta avvenendo, non soltanto per motivi di inquinamento luminoso, quanto soprattutto per motivi di cambiamenti climatici, per cui i migratori che sono appunto così plastici in molti casi riescono ad adattarsi molto bene e quindi a decidere di non migrare più quando non ce n'è più bisogno. Ci sono anche specie che hanno fatto trasferimenti molto più a corto raggio. Io per esempio abito a Roma, da qualche anno Roma è diventata un luogo molto apprezzato dai gabbiani, i quali gabbiani fanno una vita piuttosto intensa anche di notte, stando ai loro strilli e a quello che si può sentire. È sempre stato così o è la città e la luce che li ha resi nottambuli? Ma guarda, in realtà nell'habitat naturale della specie, cioè le falerie, Sì. Diciamo, in realtà nell'habitat naturale della specie, cioè le scogliere, le falesie rocciose oppure i greti dei fiumi, la notte è generalmente buia e questi animali, essendo diurni, sono per forza costretti all'inattività. Ciò non toglie che però può capitare di vedere anche in mare aperto durante la notte stormi di gabbiani che vanno in mangianza, cioè che cacciano sui banchi di pesce. Questo però avviene soltanto in un caso, quando c'è la luce della luna e quindi quando questi animali sono in grado di vedere sostanzialmente. Ecco, a Roma il cibo è in abbondanza, purtroppo, visto che questi animali si nutrono di rifiuti quando diventano inurbati. Cosa fanno di notte? Non cercano certo cibo o comunque non è la loro priorità? I gabbiani reali che hanno imparato a riprodursi sui tetti di Roma, che sono sostanzialmente come per loro come delle piccole isole in un mare di asfalto sostanzialmente, e una popolazione molto grande perché ammonta ormai a 800 coppie a partire dalla prima che ha cominciato a nidificare su Roma nel 1981, si nutrono prevalentemente in discarica, come si diceva, quindi un immenso ristorante a cielo aperto, aperto 24 ore su 24. Questo che cosa comporta? Questi animali, invece di passare la maggior parte della giornata alla ricerca del cibo, come avrebbero fatto in natura, si procurano in realtà il pasto quotidiano in pochissimo tempo, in casi in un'ora o poco più. Pertanto si ritrovano a dover gestire un'enorme quantità di tempo libero, tra virgolette, che impiegano poi nei modi più disparati, essendo animali molto adattabili e intelligenti, il più delle volte riposandosi, oppure per esempio cercano di acchiappare in volo gli stormi o si specializzano nella cattura dei piccioni. O fanno sport, insomma. Sì, per certezza. Addirittura ci sono stati registrati comportamenti di gioco vero e proprio con animali, gabbiani reali, che prendevano oggetti, li lanciavano in aria e provavano a raccoglierli in volo. Però il più si tratta di aspetti di socializzazione, per cui loro impiegano questo tempo libero che loro hanno a disposizione in tutti, diciamo, questi comportamenti. Il tutto ovviamente avviene anche durante quella che un tempo era la notte, soltanto che ora noi l'abbiamo illuminata a giorno e quindi loro portano avanti questa attività anche durante la notte. Grazie Alessandro Montemaggiori, buonasera. Grazie, buonasera. Adesso vi do un numero che vi piacerà conoscere, non è una cifra esatta ma una stima abbastanza precisa. Il numero è la risposta alla seguente domanda: quanta pipì fa la nostra specie ogni giorno? Il numero è il seguente, circa 10 miliardi di litri. Se a questo numero ci aggiungiamo la pipì fatta dagli animali che hanno una frequentazione stretta con noi umani, cani, gatti, ma anche mucche e maiali, no? Per esempio, ecco, il numero sale di 4 o 5 volte. Allora, perché buttar via tutta questa abbondanza? Voi direte, ok, ma in che senso si parla di abbondanza? Bene, un gruppo di ricerca della Università Heriot Watt di Edimburgo si è chiesto cosa costa in molti paesi che hanno i sistemi di filtraggio delle acque, cosa costa appunto filtrare questa urina. Ebbene, si è fatto un calcolo su un paese campione per il quale abbiamo molti dati, gli Stati Uniti, e quello che è venuto fuori è che l'1,5% di tutta l'elettricità consumata ogni anno se ne va negli impianti di filtraggio. Ora, l'urina contiene circa il 2% di urea e ogni molecola di urea contiene 4 atomi di idrogeno. La produzione di idrogeno è una delle direzioni di ricerca più praticate oggi perché si sta andando alla caccia di sistemi sempre più efficienti per produrre idrogeno, che c'è dappertutto, però non è facile estrarlo. L'idrogeno è un combustibile che ci darebbe risultati eccezionali in termini di risparmio energetico. Idrogeno da usare per le automobili, ma anche per il riscaldamento delle case e poi anche le aziende. Ecco, pensate per esempio a tante aziende, in un paese come il nostro ne abbiamo tantissime, proprio quelle che hanno allevamenti di mucche o di maiali, le famose gigantesche maialopoli. Bene, il team dell'Università di Edimburgo si dice sicuro di poter mettere in campo un sistema di estrazione dell'idrogeno dall'urina con una efficienza altissima. E cosa vi devo dire? Aspettiamo, noi siamo pronti, mica ci chiedono di fare cose strane, no? È sempre la stessa roba. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. mai, in tanti anni che faccio informazione scientifica non ho mai sentito parlare di questa isola Clipperton. Tu? Fino ad ora non ne avevamo mai sentito parlare, fino a che un ascoltatore del nostro programma, insomma, ci ha segnalato questa curiosità su il canale che di solito utilizziamo per lanciare, diciamo, i nostri temi, che è Facebook, sul quale appunto ci trovano come Moebius Scienza, e ovviamente vi invitiamo a mandarci altri temi, altri quesiti, altre domande impossibili alle quali appunto noi possiamo forse dare risposta, o anche attraverso la classica mail moebius@radio24.it. Insomma, Giorgio, che ovviamente su Facebook aveva un altro nomignolo, ci poneva il seguente quesito. Ti ho chiesto di avere qualche informazione in più su questa isola misteriosa e dispersa nell'oceano, su quale ho trovato qualche notizia su internet, ma ben poco, e mi affascinava avere qualche informazione in più. Ecco, e caramba, noi abbiamo qualche informazione in più. Abbiamo l'italiano che è appena stato in spedizione. E questa è stata una coincidenza. Una coincidenza totale, una fortuna totale. Fortunatissima. Allora, Giorgio, rimanga in ascolto, che adesso, insomma, cerchiamo in qualche modo di soddisfare la sua curiosità. Buonasera, Chicco Maggioni. Buonasera. Esploratore, ha detto Chiara, ma mi sembra forse non Beh, è non fa proprio solo quello bianco. Nella vita, diciamo. Che cosa fa lei nella vita, Maggioni? Sono medico, chirurgo ortopedico. Però si è spinto fino là perché ha una passione. Sì, una passione grandissima che è data dalla infanzia per il mare e la subacquea. Ecco, allora adesso ci deve raccontare. Intanto ci deve dire dov'è quest'isola. È certo. L'isola è lontana, è nel Pacifico. E io l'ho raggiunta, ma generalmente la si raggiunge partendo da Cabo San Lucas, che è la punta estrema a sud della Bassa California, che fa parte del Messico. Da lì si parte per un viaggio che è piuttosto lungo, insomma, ci avete messo parecchi giorni per raggiungere l'isola, e anche una volta lì. E anche in miglia quant'è? In miglia sono circa 800 miglia nautiche. 1600 chilometri, 1800 e qualche chilometri, circa 1800 metri è un miglio nautico, sono circa quasi 800 miglia di mare. Abbiamo fatto una prima sosta partendo da Cabo San Lucas nell'arcipelago di Revillagigedo, meglio noto come Socorro, che anche quello è un parco marino è protetto. È un parco marino bellissimo, meraviglioso, dove ero già stato nel 2003, isole vulcaniche. Ci siamo fermati lì per una mezza giornata, abbiamo fatto qualche immersione e un paio di immersioni, e poi dopo abbiamo ripreso la navigazione, che è durata 3 notti e 2 giorni da Revillagigedo, che è già distante 27 ore di navigazione da Cabo San Lucas, per cui abbiamo aggiunto altre 3 notti e 2 giorni per arrivare poi all'alba, 3 giorni dopo, all'alba a vedere Clipperton. Ecco, quindi, vedere non è facile. Una forte motivazione, tra l'altro. Certo. Perché, insomma. Sì. Sì, poi dopo, infatti, lei ci ha già detto qualcosa prima della trasmissione, la motivazione diventa ancora più motivante, possiamo dire. Sì. Ma dunque, isola è un po' eccessivo quasi chiamarla isola, perché ci descrive un attimo la forma. Noi una foto siamo riusciti a vederla. Satellitare, sì. Sì, è fatto un po' ovale, quasi una ciambella, di diametro circa 2 chilometri. Lei, Maggioni, dice una ciambella perché in mezzo c'è un buco. Esatto. Sì, ma è enorme, è un anello praticamente. È un anello che di corallo, che è nato sopra l'estremità della bocca di un vulcano. Lì pare ci fosse in un tempo passato prima un'isola vera e propria fatta proprio dal vulcano, poi il vulcano migliaia d'anni fa è esploso e ha lasciato, è esploso, ma è rimasto a livello poco sotto il livello del mare, e sopra questo è cresciuto questo corallo, questo anello di corallo. La parte interna però del vulcano, il buco proprio, il buco, il cratere, è rimasto isolato dall'esterno rispetto al mare esterno. Ma c'è acqua. Quindi non è un atollo classico, è un atollo classico. C'è acqua all'interno, che però mi pare che sia inaccessibile. Allora, all'interno c'è acqua che è salmastra, l'aspetto è quello di uno stagno, di un nostro immenso stagno. è un'acqua che non ha nessun rapporto con l'acqua, un rapporto apparente con l'acqua del mare, che invece è all'esterno di questa di questo anello. Ecco, perché lei ci diceva che l'ha assaggiata e appunto non era salata come l'acqua dell'oceano, ma appunto un po' più dolciastra, probabilmente per questo, perché è completamente separata dalle acque circostanti. Sì, c'è tutta un'altra storia geologica, ma ci si può immergere? Nel lago io ho visto, l'unica esperienza che ho è in diretta, cioè vista, è un filmato di Cousteau di circa 40 anni fa, Cousteau era entrato dentro, nel lago c'è un punto un pochino più profondo, erano entrati dentro con delle maschere gran facciale, cioè coprivano tutto il viso, perché l'acqua pare fosse solforosa, e pare sia solforosa, per cui irritante per gli occhi, per il viso, per la pelle. Poi hanno sospeso l'immersione dopo una discesa fino intorno ai 20-25 metri di profondità, perché erano, non ce la si fa, non riuscivano, erano come intossicati, non si vedeva niente, si sono anche spaventati, sono tornati super dall'eccessività dello zolfo. Ecco, io vorrei che si capisse che è un'isola deserta, cioè ovviamente non ci abita nessuno, i turisti, ci sono ecco quei 10 esploratori che erano con lei, che raggiungono appunto l'isola, mi sembra soltanto una volta all'anno, e anche diciamo quando si trovano quella volta all'anno, perché non sempre si trovano 10 esploratori, 15 che vogliono disposti andarci, ad andare. E mi sembra che l'unico momento in cui l'isola è stata abitata è stato agli inizi del 1900, intorno al 1914, no Maggioni? Sì, circa un secolo fa c'è stato un tentativo di andare a recuperare il guano che c'è sull'isola. L'isola è popolata da migliaia e migliaia di sule, di uccelli marini, per cui è ricoperta dappertutto c'è guano, e volevano sfruttarlo questo guano. Poi però la vicenda ha assunto toni tragici, c'è stato anche più di un delitto sull'isola, fra quelli che erano rimasti sull'isola, ed erano rimasti sull'isola perché dopo il primo passaggio di una nave che ha raccolto il guano che era stato tirato via dall'isola, poi la nave non è più passata. Allora si sono sentiti abbandonati, insomma una situazione un po'... Effetti li avevano abbandonati, diciamolo. Ecco. Li avevano abbandonati, poi sono stati salvati da altre navi, ma nel frattempo erano successe una serie di eventi tragici all'interno dei sopravvissuti sull'isola, insomma una situazione difficile, non felice, peggiorata dal fatto che non essendoci difficoltà a vivere, a mangiare, malgrado ci siano tanti pesci, però le difficoltà di sopravvivere sull'isola sono grandi, la temperatura è molto molto elevata. Molto elevata. Sì. Ci fu un altro tentativo nella Seconda Guerra Mondiale da parte degli americani, no? L'esercito americano cercò di stabilirsi su questo. Ci hanno provato un po' tutti ad avere, Messico, Francia, americani. Sì, io ho letto di questo tentativo su un documento che ho trovato sulla barca con cui andavamo, originale americano, ma è stato un tentativo che è finito prestissimo rapidamente, e tenuto molto molto segreto dagli americani, che avevano fatto un accordo appunto con i francesi per avere l'utilizzo di quest'isola, però poi l'hanno smesso subito perché hanno visto che era troppo disagevole e non offriva quello che loro cercavano. Ecco, infatti la situazione geopolitica di quest'isola è strana, adesso è di proprietà francese, anzi sotto il protettorato della Repubblica della Polinesia francese. Che tra l'altro ha imposto delle regole, perché io immagino se arriva questo su quest'isola la prima cosa che si fa, Maggioni, che cos'è? Fare un centinaio di foto? Sicuro, almeno. E invece nemmeno una. E invece nemmeno una, perché poco prima di scendere sull'isola dalla barca ci hanno comunicato che avevano ricevuto un'intimazione da parte direttamente dal governo francese che non si potevano fare fotografie. E non si potevano fare fotografie perché pare che l'isola sia stata dichiarata di interesse strategico. Ora, guardando l'isola, francamente non si capisce. Infatti, chiudendo, ci dà un'immagine che forse non potremo mai vedere, o forse se scaviamo un po' sul web qualcosa si trova, di che cosa si vede sbarcando su quest'isola in maniera anche non semplicissima. Allora, scendere sull'isola non è facilissimo, noi abbiamo trovato anche dei giorni con un po' di mare, un po' di onde, per cui scendere non è stato facile perché non ci sono delle vere pass nel reef che difende l'isola dalle onde dell'oceano, per cui passare non è stato facile. Una volta arrivati sull'isola, il colpo d'occhio è dato dalle sule. Le due cose colpiscono: la quantità di sule non spaventate perché non conoscono l'uomo, e l'altra cosa che colpisce la fantasia è il fatto che c'è tanta plastica portata dal mare e che è andata a depositarsi sulla riva del mare, galleggianti di tutti i generi, oggetti che galleggiano, ma soprattutto di plastica, e questo fa un po' male per un appassionato del mare. Sì, ecco. Quindi la presenza umana, diciamo che purtroppo c'era. C'era, sì, insieme a qualche residuo del passato, dei passati tentativi di stare sull'isola. C'è qualche abitazione distrutta, ormai non c'è praticamente più niente, ci sono solo qualche gettata di cemento, qualche motore arrugginito e basta. Però ne è valsa la pena, via. Ah sì, assolutamente, è un'isola, io un po' di isole le ho viste in giro per il mondo, in tutti gli oceani, ma un'isola così particolare proprio non la immaginavo nemmeno, con una parte interna così diversa dalla parte esterna. Il lago interno è proprio un altro mondo rispetto al mare che le circonda l'isola. Grazie Maggioni. Prego. Grazie, voi. Arrivederci. Buonasera. Se avete desiderio di sapere più cose sull'isola di Clipperton, andate al nostro sito www.moebiusonline.eu o digitate Clipperton nella finestra di interrogazione e troverete anche immagini e testi vari. Comunque vi dico che 6 scienziati, 6 artisti, 4 nazioni e una barca, questi sono gli ingredienti del Clipperton Project. È una spedizione composta da scienziati, biologi, ecologi, geologi, però anche artisti, scultori, pittori, insomma, salperà questa spedizione a ottobre 2011 alla volta appunto di Clipperton, con lo scopo di studiarne la biodiversità, mettere a punto un piano di conservazione e valutare l'impatto dei cambiamenti climatici in un ecosistema così strano come quello appunto che vi abbiamo raccontato. Un altro aspetto importante che i ricercatori valuteranno e cercheranno di mitigare è quello dell'inquinamento da plastica, l'avete sentito, che flagella i pochi metri quadrati di suolo corallino che formano questo atollo unico nel suo genere. La spedizione durerà 3 settimane, tutte le informazioni raccolte saranno utilizzate sia dagli scienziati sia dagli artisti per divulgare in maniera creativa rispetto per l'ambiente e far comprendere l'importanza di salvaguardare un habitat così straordinario. Per informazioni potete andare a www.clippertonproject.com. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Adesso trattiamo un nuovo argomento che però si poteva trattare anche la prossima settimana. Tuttavia Chiara Albicocco e Alberto Agliotti, che hanno curato il servizio, anche loro erano indecisi, ma insomma, comunque ascoltate. Avremmo dovuto farla settimana scorsa questa intervista, Alberto, lo sai, vero? Sì, lo so. Sei un procrastinatore. Però anche tu non scherzi. Sì, siamo due procrastinatori, e procrastinatore è anche il nostro ospite. Una puntata veramente eccezionale. Il nostro ospite, che è Fabio Paglieri. Buonasera Paglieri. Buonasera. Che è ricercatore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma. È È anche difficile da dire. Sì. Un procrastinatore. È un procrastinatore e si è accorto di esserlo perché li ha studiati. Ebbene sì, sì, mi avete già presentato in questo modo terribile, però sì, è vero, sono un procrastinatore e mi occupo anche di procrastinazione per lavoro. Che cosa vorreste sapere sui procrastinatori, visto che vi siete scoperti anche voi in questa posizione? Ci siamo scoperti anche noi, ma abbiamo scoperto lei per prima, abbiamo scoperto che siamo in buona compagnia e lo abbiamo scoperto leggendo il suo articolo su Nature. Cosa ci faceva un ricercatore italiano su Nature parlando di procrastinazione? Ci spieghi un po' in breve questa storia e poi entriamo nel dettaglio. Beh, intanto ogni tanto i ricercatori italiani fortunatamente finiscono su Nature anche per altre ragioni. Comunque nel mio caso la rivista non molti, infatti l'abbiamo chiamata subito. Ah, grazie. Nel mio caso in realtà non è per meriti strettamente scientifici, semplicemente la rivista mi ha selezionato l'anno scorso insieme ad altri colleghi in varie parti del mondo per occuparmi di una rubrica chiamata Postdoc Journal, che potremmo tradurre liberamente diario del giovane ricercatore. Sostanzialmente ci viene chiesto di descrivere in prima persona sfide, soddisfazioni e anche difficoltà del fare ricerca. E nell'ultimo articolo, come dicevate, mi sono occupato proprio del problema della procrastinazione in ambito accademico, di cui un po' tutti noi ricercatori e non solo noi ricercatori soffriamo. Questa è un po' la ragione per cui mi avete trovato sulle pagine di Nature. Ecco, in Italia non esiste un giornale così, perché se dovessimo parlare dei problemi della ricerca facciamo un tomo, un'enciclopedia. Sì, sono d'accordo. Va bene. Ma non parliamo, ne passiamo alla procrastinazione. Lei dice che le capita un po' come succedeva al protagonista di Tre uomini in barca, romanzo di Jerome Klapka Jerome, che leggendo un libro di medicina che aveva trovato al British Museum si identificava in tutti i sintomi di tutte le malattie che incontrava, quindi pensava di essere malato di tutto. Esatto. Beh, diciamo che agli psicologi capita a volte, perché comunque ci capita di studiare sistematicamente in laboratorio non solo tutta una serie di caratteristiche, a volte anche di errori nel ragionamento, nella decisione, è inevitabile rendersi conto che a volte insomma, anche noi ne siamo affetti. Per quanto riguarda caso... la procrastinazione, diciamo che si tratta sostanzialmente di rimandare un compito in un modo che però è inefficiente e irrazionale, quindi di solito col risultato di non riuscire a portare a termine il compito oppure di riuscirvi in modo parziale e soddisfacente. È un atteggiamento abbastanza diffuso, mi pare di capire, cioè lo vedo anche quotidianamente. Sì, è abbastanza endemico, cioè tutti noi direi prima o poi ci capita di procrastinare e alcuni può capitare anche molto spesso. Diciamo che una cosa abbastanza diabolica della procrastinazione è il fatto che combina inefficienza e insoddisfazione. Per capirci, lo studente procrastinatore, a titolo di esempio, non è quello che esce a divertirsi anziché stare a casa a studiare. Il procrastinatore, purtroppo, rinuncia a divertirsi pur di stare a casa a studiare. Ma poi si mette a perdere tempo in mille attività inutili, tipo fare zapping, navigare in rete e mille altre piccole banalità. Il risultato tragico è che a fine serata non ha né studiato né si è divertito, cioè non ha fatto né quello che avrebbe dovuto né quello che avrebbe voluto. E infatti la procrastinazione si accompagna spesso anche a scarsa autostima, un certo senso di vergogna, malumore, insomma, vari vissuti sgradevoli che sono sicuro vi saranno familiari. Paglieri, ci sono diversi gradi allora di procrastinazione, cioè c'è quella, va bene, dello studente un po' svogliato, d'accordo, ma forse c'è anche una che sfocia nella patologia, che poi appunto viene in qualche modo aiutata e risolta da voi psicologi? Sì, diciamo che allora la diagnosi è molto molto difficile e molto delicata, anche perché appunto, come diceva giustamente, è una questione di gradi. Sicuramente la procrastinazione può diventare preoccupante non solo per l'individuo, ma anche come problema sociale. Tanto per fare un esempio, è ormai già dalla fine degli anni 90 che si parla molto e si studia molto sul cosiddetto cyber slacking, cioè la tendenza di molti lavoratori a usare internet per scopi privati durante l'orario lavorativo. E diciamo l'avvento dei social network tipo Facebook ha solo ingigantito un fenomeno che già c'era e che si stima costi miliardi in termini di ore di lavoro sprecate. Ora, i rimedi, diciamo, ce ne sono molti proposti in letteratura, possibili modi di smettere di procrastinare o perlomeno ridurre gli effetti nefasti. Diciamo che le ricette sostanzialmente si possono distinguere in tre tipi di strategie. Alcuni sostengono che la procrastinazione vada combattuta internamente, cioè con una maggiore forza di volontà. Questa è la soluzione, diciamo, volitiva ed è quella che ha la storia più lunga, anche perché ha radici morali e religiose. La procrastinazione è vista come un vizio che va corretto con uno sforzo di volontà. Il problema è che, diciamo, le scienze sociali ci hanno dato molte ragioni per credere che la forza di volontà non sia esattamente la cosa in cui la nostra specie è particolarmente abile e competente, quindi alcuni individui forse possono farcela per questa strada, ma è difficile che sia la soluzione generale. Mm-hmm. Una seconda tecnica che si trova spesso è l'uso intelligente di vincoli esterni, e questo per esempio è il caso di Ulisse con le sirene. Come mm-hmm. probabilmente ricorderete, nel mito Ulisse si fa legare all'albero della sua nave perché sa che quando andrà al canto delle sirene vorrà buttarsi in mare e ovviamente vuole evitare questo effetto sgradevole. Qui Ulisse sta prevenendo una debolezza della sua volontà e provvede anzitempo a limitare le sue possibilità di azione in modo intelligente. E questa è la stessa cosa che facciamo quando andiamo a studiare in posti dove non c'è una connessione alla rete, per esempio in biblioteca. Insomma, ci sforziamo ad applicarci. Esatto. E questo di nuovo è stato abbastanza studiato. Infine, la terza strategia consiste in realtà nel cedere alla propria indole procrastinatrice, però in qualche modo assicurarsi che questa ci spinga comunque a impegnarci in attività utili, produttive e gratificanti. In questi casi si parla di procrastinazione strutturata, che è un'idea inventata da John Perry, un filosofo americano, e qui l'idea è che in realtà il procrastinatore non è che rimanga inattivo, cioè non è che non fa niente, quello che fa è che si impegna in un'attività diversa da quella che aveva originariamente progettato. E quindi il trucco è assicurarsi che questa nuova attività sia comunque utile e non una semplice perdita di tempo. Per esempio, se lo studente che procrastina in modo strutturato si mettesse a preparare l'esame della prossima settimana anziché impegnarsi nella stesura della propria tesi che deve consegnare fra alcuni mesi, ovviamente sarebbe già un risultato rispetto a passare la serata a navigare in siti di dubbio interesse. Allora Paglieri, ma la procrastinazione rientra nel problema più generale della gestione del tempo, in un certo senso su come organizziamo l'agenda delle cose da fare, e non riguarda solo gli esseri umani, non riguarda solo gli adulti ma anche i bambini, ma anche gli animali, o no? Sì, sì, certo, diciamo che problemi nella gestione del tempo li abbiamo un po' tutti, in particolare una scarsa capacità di tollerare ritardi e attese, ed è proprio questo di cui principalmente mi sto occupando insieme ad alcuni colleghi, e stiamo lavorando non solo con gli umani, cioè non solo con gli adulti umani, ma anche con bambini molto piccoli e con delle scimmie, i cebi, che sono delle piccole scimmie originarie del Sud America. Che gli ascoltatori di Mebius conoscono benissimo, vado avanti a parlare. Immagino. Comunque il lavoro con i cebi è fatto in collaborazione con Elsa Dessi, una ricercatrice del mio istituto che lavora all'unità di primatologia cognitiva presso il Bioparco di Roma. E quella con i bambini invece vede in prima fila Francesca Bellagamba, che è una psicologa dello sviluppo della sapienza di Roma, e in questo caso abbiamo lavorato con alcune decine di bambini di età compresa fra i 2 e i 4 anni. E in entrambi i casi si tratta di lavori molto che presentano le loro sfide, però anche molto interessanti. L'obiettivo è sostanzialmente vedere come fattori diversi influenzano la nostra maggiore o minore propensione a tollerare l'attesa e come questa fra l'altro si sviluppa sia durante la crescita sia fra specie diverse. Va bene, questi insomma, universalmente diffusa la procrastinazione, stiamo tranquilli, sì, Alberto, possiamo stare tranquilli. Va bene, grazie Paglieri, buon lavoro e alla grazie prossima ricerca, ci faccia sapere. Senz'altro, arrivederci. Buonasera. Luca Novelli credo proprio sia l'unico disegnatore italiano di storie per giovani e giovanissimi lettori, storie che riguardano la scienza e la tecnologia. Di queste storie neanche l'autore negli ultimi tempi si è anche cimentato con successo nella produzione di trasmissioni televisive. È uscito un suo libro, edito da Editoriale Scienza, che racconta l'avvento della tecnologia forse più amata da noi tutti e più suggestiva, il cinema. E quindi il libro non può che intitolarsi Fratelli Lumière, libro accompagnato da un DVD che contiene una delle trasmissioni televisive di cui vi dicevo, quella dedicata ai geniali fratelli francesi. Sentiamo Luca Novelli che introduce un simpaticissimo Auguste Lumière. Oggi andiamo al cinema, oppure ci guardiamo un film in TV e così via. Seguiamo la vita degli attori, ci affezioniamo ai personaggi dei cartoni, ci emozioniamo grazie alle storie e ci spaventiamo per certi effetti speciali. Ma quando nacque il primo dei fratelli Lumière, non c'era nulla di tutto questo. Sentite cosa ci racconta. Bonjour à tout le monde, bonjour à tutti, sono Auguste Lumière, sono nato nel 1862 a Besançon, non lontano dalla casa di Victor Hugo, l'autore dei Miserabili. Siamo nati nel bel mezzo del secolo delle macchine a vapore e del progresso. Louis-Jean è nato 2 anni dopo di me. Il nostro cognome, Lumière, in francese vuole dire luce, e la luce sarà il nostro destino. Da piccoli aiutavamo nostro padre Antoine, fotografo di professione, prima a Besançon, poi a Lione. Ci piaceva il suo lavoro, veniva tanta gente nel suo laboratorio, signori con i baffi, militari e belle signore. Ma i nostri interessi prenderanno strade diverse. Io studierò anche medicina e diventerò medico. Lui invece si appassionò alla fotografia e ai fenomeni ottici ed ebbe un sacco di lampi di genio in questo campo, fino al punto che dopo aver studiato chimica a scuola inventò per papà un sistema di preparazione delle lastre fotografiche. Ma i Lumière nacquero fotografi. Da ragazzino mi vantavo di sapere tutto della fotografia. Sapevo che le immagini vengono proiettate al contrario all'interno di una camera oscura, che pittori e artisti avevano usato questo congegno per disegnare paesaggi e ritratti e che i sali d'argento si anneriscono quando sono esposti alla luce. Sapevo che la prima foto della storia fu ottenuta con una lastra coperta di bitume che si indurisce alla luce. Il signor Niepce l'aveva impressionata con una esposizione alla luce di 8 ore. Poi uno scenografo parigino di nome Daguerre inventò un metodo di sviluppo più rapido e nitido che prese il suo nome daguerrotipo. Le foto erano su lastre di rame argentato. All'inizio venivano fotografati solo paesaggi o oggetti, non persone, perché in questo caso il soggetto avrebbe dovuto star fermo per ore. Poi fu inventato un procedimento su lastre di vetro che consentì esposizioni più brevi e tutte le famiglie cominciarono a farsi fotografare. Clic, clic, sorridi, clic. La fotografia loro non bastava e quindi, lavorando nei loro laboratori, arrivò un fatidico giorno. Ricordo con una certa emozione quella storica notte del 28 dicembre 1895, quando abbiamo cominciato a proiettare i nostri film su un grande lenzuolo bianco davanti ad alcune decine di spettatori. Eravamo nel sotterraneo di un caffè di Parigi. La proiezione suscitò un'enorme sensazione. La chiamammo cinematografo. I fratelli Lumière, quindi, libro di Luca Novelli, libro più DVD e editoriale Scienza. Vi ricordo che in edicola potete trovare il primo DVD della collana Beautiful Minds, collana del Sole 24 Ore, grandi scienziati vi raccontano le grandi scoperte e i personaggi della scienza. Nel primo Pier Giorgio Di Freddi vi racconta Pitagora. Noi invece con Mebius ci sentiamo fra 7 giorni. Buona serata a tutti e a tutte.